Euroreportage. La linea Renzi al test dell'Europa, di Sergio Nava. Buongiorno da Bruxelles, dalla sala stampa del Palazzo Justus Lipsius, sede dei vertici comunitari. In questo Euroreportage ripercorriamo l'esordio di Matteo Renzi in Europa, il vero esordio, la vera prima di Renzi a Bruxelles, potremmo aggiungere. Per lui in precedenza solo una rapida apparizione, 2 settimane prima, in occasione del summit straordinario sull'Ucraina. E riportiamo allora l'orologio indietro fino all'ora di pranzo di giovedì, quando il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e il Presidente della Commissione Barroso si trovano nella scomoda posizione di dover rispondere agli annunci che arrivano dall'Italia. Annunci che raccontano un Matteo Renzi battagliero. Nell'arco di 24 ore definisce il patto di stabilità europeo e il tetto del 3% nel rapporto deficit-PIL come qualcosa di anacronistico. Poi fa filtrare che intende chiedere l'esenzione dei fondi strutturali europei dal calcolo del patto di stabilità. Un'offensiva a tutto campo, insomma, per ridisegnare le regole fondanti dell'Eurozona. Parole che fanno inarcare più di qualche sopracciglio a Bruxelles. Le risposte di Van Rompuy e Barroso, che incontreranno Renzi di lì a qualche ora, puntano a temporeggiare. I due si scambiano uno sguardo complice, accompagnato da un sorriso imbarazzato. A qualcuno ricorda la celebre scena Merkel-Sarkozy 2 anni e mezzo fa nei confronti di Berlusconi. Qui però il contesto è diverso. Il primo a prendere la parola è Herman Van Rompuy. Subito dopo parla Barroso. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler à Monsieur Renzi. Bien sûr, tout le monde doit continuer à appliquer les règles convenues. J'ai pris bonne note des déclarations qu'il a fait, notamment dans une visite à Berlin récemment, où il s'est engagé à un programme très ambitieux de réforme, en même temps qu'il a dit clairement qu'il respecterait toutes les obligations au niveau européen. Tutti devono continuare ad applicare le regole, dice asciutto Van Rompuy, mentre Barroso è più loquace. Ho preso nota del programma ambizioso di riforme italiano. Il premier Renzi ha affermato che rispetterà tutti gli impegni presi in sede europea. Questo rispetto è fondamentale, conclude. L'Italia sta rispettando tutti i vincoli. Quindi l'Italia è uno dei paesi che i vincoli li rispetta. Così invece Matteo Renzi risponde di lì a poco, lasciando il prevertice dei socialisti europei. Renzi ha fretta, al Palazzo Bellemont, nel quartiere europeo, lo attende proprio Barroso, lo stesso che poco prima lo aveva messo in guardia. Renzi arriva in ritardo, c'è il tempo per una rapida stretta di mano davanti ai fotografi e per una battuta autoironica sulla giacca, che stavolta è abbottonata nel modo giusto, non come quel cappotto malandrino con la Merkel. Poco più tardi Barroso twitterà che l'incontro con Renzi è andato molto bene e che c'è il sostegno di Bruxelles al processo di riforme intrapreso in Italia. A tarda notte, in conferenza stampa, aggiungerà che il premier italiano gli ha assicurato il rispetto delle regole. E proprio il tema delle riforme è il perno su cui si incentra il mantra renziano. A sorpresa, il premier convoca i giornalisti e lancia un messaggio chiaro: noi vogliamo rivoluzionare l'Italia con le riforme e non stiamo qui a parlare dello zero virgola. Molto bene, sono contento che il processo di riforme si è apprezzato in Europa, l'avevamo già visto in queste settimane. Per noi è molto importante riuscire a far passare il messaggio adesso, non soltanto ai nostri partner europei, dell'importanza del lavoro insieme, e questo è relativamente facile, lo avete visto dalle reazioni, anzi sono molto grato al Presidente Barroso e a tutti i leader europei che stanno esprimendo parole di apprezzamento, ma il nostro obiettivo adesso è spiegare alle famiglie italiane che l'Europa non è la causa dei nostri problemi. L'Europa è la possibile soluzione dei nostri problemi. Per chi ha voglia di aspettare i numeri, si tratta di qualche giorno e arriverà il DEF. Per chi pensa che il dibattito tra il Presidente della Commissione e il Primo Ministro di un Paese sia sulle zero virgola e non sul grande processo di riforme, beh, non so più che dirvi. Noi stiamo rivoluzionando e cambiando l'Italia. Alla luce di questo, le coperture a cui lei probabilmente vorrà fare riferimento sono fuori di discussione, fuori di dubbio. Il concetto sarà ribadito più tardi, in modo più diplomatico, dal sottosegretario agli affari europei Sandro Gozzi, che contestualizza la giornata europea di Renzi all'interno del processo di riforme. Sarà, ma sui numeri l'Europa ha dimostrato in passato di non scherzare proprio, mettendo in difficoltà persino 2 profondi conoscitori degli affari comunitari come Mario Monti ed Enrico Letta. Per intanto Matteo Renzi incassa il convinto sostegno del presidente dell'Europarlamento Martin Schulz, che già in piena campagna elettorale per l'Europea afferma: l'Unione ha bisogno di un'Italia forte, l'Italia ha bisogno di un'Europa solidale, che vuol dire sostenere il paese a uscire dalla crisi. Io lotto con Renzi per questo, spero ce la faccia con le riforme, dice Schulz. Cerchiamo ora di capirne di più. Uno dei temi sollevati da Matteo Renzi ha riguardato proprio alla vigilia del Consiglio europeo il vincolo del patto di stabilità, quel rapporto del 3% tra deficit e PIL che lo stesso Renzi ha definito anacronistico, con l'evidente obiettivo di riaprire la discussione a livello dei leader europei nei prossimi mesi, dopo le elezioni, Merkel permettendo. Abbiamo girato la domanda sui reali margini negoziali al vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Io credo che innanzitutto si debba dire che il patto di stabilità non è un computer dentro il quale si mette il dischetto per vedere se il lavoro che fa ogni Stato membro è in sintonia con il patto. Il patto di stabilità deve essere interpretato politicamente, ci sono dei fattori attenuanti che possono e devono essere presi in considerazione, insomma non è un dogma intoccabile. Noi lo abbiamo fatto, noi siamo il vicepresidente Rehn ed io, in occasione della lettera del 18 marzo dello scorso anno, quando dicemmo che l'Italia poteva pagare tutti i debiti pregressi che aveva con le imprese senza sforare il patto di stabilità, proprio perché questi debiti venivano, il pagamento di questi debiti veniva considerato un fattore attenuante. Ecco, questo è un principio che dimostra come si possa e si debba lavorare interpretando il patto di stabilità. Da questo punto di vista, se l'Italia si presenterà con delle riforme decise, non soltanto promesse, perché poi si tratta di vedere quanto la volontà del governo sia anche la volontà del Parlamento. Ecco perché ritengo che alcune riforme avviate con decreto legge avrebbero più forza qualora l'Italia le presentasse al tavolo di Bruxelles per far dare un'interpretazione più elastica del patto di stabilità. Questo per quelle che sono le regole di oggi. Poi, durante il corso della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, con il rinnovo della Commissione europea alla fine di questo anno e con la nomina del nuovo Presidente del Consiglio europeo, credo si debba affrontare il dibattito sul patto di stabilità. Questo è lecito e legittimo. Poi vedremo quali saranno i risultati. Ma com'è stata questa prima di Matteo Renzi a Bruxelles, faccia a faccia con i 27 colleghi europei e con i leader comunitari, per affrontare il tema dei conti pubblici e delle riforme italiane? È riuscito Renzi a cambiare verso anche in Europa? Oppure per adesso ha incassato credito e fiducia solo sulla volontà riformatrice, non sfuggendo però a un clima di sospetto sul tema dei vincoli di bilancio e delle coperture economiche? Lo abbiamo chiesto a Enrico Brivio, giornalista, esperto di affari europei, per 13 anni corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles. Senza dubbio Renzi è riuscito a passare, diciamo, l'esame europeo ed è stato accolto con un certo favore, però non c'è dubbio che sia anche il terreno più difficile per lui, perché sia sul piano dei contenuti sia sul piano della comunicazione. Sul piano dei contenuti, perché c'è la difficoltà di far rientrare, come sappiamo, i parametri contabili delle sue riforme con i vincoli posti dall'Europa, ma anche sul piano della comunicazione, se in Italia il suo essere, avere questa energia giovanilista ha un impatto positivo sugli elettori, qui ovviamente viene un po' ingabbiata nelle ritualità comunitarie, nei vincoli e nelle procedure che si devono rispettare a un vertice. Non è un caso che i grandi comunicatori, anche come Tony Blair, come lo stesso Berlusconi, Sarkozy, che in patria amano debordare, amano avere questo colloquio diretto con gli elettori, poi qui si trovino un po' costretti nei vertici europei. Tra l'altro è un ambito in cui lui, che sul piano dell'impatto comunicativo e della comunicazione è riuscito senza dubbio ad avere una marcia in più rispetto ai predecessori Mario Monti ed Enrico Letta, qui sul terreno europeo c'è da dire che Mario Monti era molto rispettato, veniva da un doppio mandato di commissario europeo, e anche Enrico Letta, essendo stato europarlamentare, profondo conoscitore dell'Europa. Quindi qui Renzi forse gioca un po' fuori casa e quindi qualche volta l'abbiamo visto anche un po' irritato del fatto che avesse incalzato sui numeri, sulle cifre. Comunque è una scommessa non da poco, lui sta puntando tutto sulle riforme, se fallisce perde tutto in Europa. Sì, non c'è dubbio, in Europa e forse anche in Italia. Diciamo che c'è stato, mi hanno detto anche dall'entourage della Merkel, una valutazione positiva del suo modo d'essere, del suo entusiasmo nel presentare queste riforme. Però non c'è dubbio che poi tutti questi ragionamenti si scontreranno con la realtà dei fatti, cioè se lui veramente riuscirà a fare delle riforme rimanendo nei parametri europei, tutti non gli toglieranno tanto il cappello, altrimenti è destinato a fallire. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.